Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Stefano Lorenzi, regista della serie TV L'Ora, Inchiostro contro Piombo, su Canale 5 per 5 mercoledì dall'8 giugno al 6 luglio 2022, ben trovato. Ciao, ben trovato, anche a te, ciao. Ce ne parli? L'Ora è stato il primo giornale antimafia che nasce negli anni 20 con la famiglia Florio, poi durante la Seconda Guerra Mondiale diventa un giornale fascista come tutti i giornali dell'epoca, perché era nel regime, e nel 1948 viene rilevato dal PC e nel 55 viene mandato un giornalista da Roma, che è Nisticò, alias il nostro Nicastro Claudio Santamaria, a dirigere il giornale per rivalorizzare un giornale. Era tra l'altro un quotidiano del pomeriggio, perché usciva alle 1 e questa era una particolarità unica, perché gli altri giornali uscivano al mattino presto, e quindi aveva un suo pubblico che aveva questo giornale fresco al pomeriggio. Nisticò arriva lì ed ha, insieme al suo gruppo di lavoro, una grande intuizione, che è quella di iniziare a mettere i nomi e cognomi dei mafiosi in prima pagina, quando allora la parola mafia era impronunciabile, e quindi iniziare a creare un racconto conosciuto a pochi, o comunque di cui non si poteva parlare, a un pubblico. E questa cosa qui ovviamente ha fatto sì che ci sia stato un attentato nel 1958 con una bomba, dove nessuno sa che la prima commissione antimafia è nata a seguito dell'attentato allora, e il giornale si fece conoscere in tutto il mondo. Poi lui è stato un innovatore, perché a sua volta poi ha cambiato il formato del giornale, l'ha reso più piccolo, tipo tabloid, e ha iniziato, venendo lui dal Paese Sera, a mettere le fotografie, cioè le immagini, i racconti, le ricostruzioni, cioè ha reso visivo un modo di fare giornalismo che allora non era. Infatti poi più avanti, nel 1968 circa, ci sarà Letizia Battaglia che entra nel giornale stesso hanno scritto da Sciascia, Gottuso, ci sono stati tantissimi ospiti che arrivavano a Palermo e visitavano il giornale L'Ora, Pasolini compreso, ecco. Insomma, per un 20 anni la direzione di Nisticò è stata una direzione illuminata e è stato un esempio di giornalismo, e quindi noi con questa serie vogliamo celebrare l'inizio di questa avventura di Nisticò, e speriamo anche che ce ne siano altre per andare avanti nel percorso della nostra serie e del racconto di questa storia, ecco. Come era nato il progetto? 8 anni fa, se non forse di più, perché ormai ho perso il conto, perché avevo fatto un documentario, avevo incontrato alcuni giornalisti ancora in vita, alcune persone che l'avevano fatto parte, soprattutto delle generazioni future, non proprio di questa qui esattamente che raccontiamo adesso, e avevo incontrato anche i figli dei giornalisti che poi a loro volta avevano vissuto da piccoli la redazione, e lì è stata un'illuminazione, perché ho detto, ma questa potrebbe essere una serie bellissima, perché finalmente ribaltiamo il punto di vista, cioè finalmente non siamo più dalla parte dei cattivi, cioè con tutta la bellezza che può avere un Gomorra, un Suburra, però comunque siamo un po' abituati a stare dalla parte dei cattivi, perché i buoni sono più noiosi, sono anche meno affascinanti forse a volte, no? E comunque stare dalla parte dei buoni voleva dire essere Montalbano, il poliziotto di turno, queste cose. Ho detto, qua c'è un'originalità, c'è un giornalista, c'è Davide contro Golia, c'è la penna contro la pistola, c'è l'inchiostro, c'è il pensiero, no? La parola. E quindi mi è sembrato veramente quello che si definisce in gergo un high concept, qualcosa che poteva sdoganare un modo diverso di raccontare un argomento visto e rivisto, che è appunto quello della mafia, e nel quale non avrei mai creduto di raccontare una storia. Io sono toscano, peraltro, di origine, però comunque ho un legame forte con la Sicilia, quindi mi sono affezionato tantissimo all'idea, ho iniziato a svilupparla, e devo dire che poi insomma abbiamo trovato un gruppo di lavoro stupendo, perché ci sono altri registi con me che sono stati bravissimi, Piero Messina e Ciro De Viglio, dove Piero poi ha impostato anche un po' l'idea della serie dal punto di vista registico. E la sceneggiatura è stata scritta da Cadu Fava, Ezio Abate, Riccardo Degni, e la produzione è stata di Indiana, che è stata la prima produzione che ha creduto in questo progetto, e poi dopo successivamente è entrata Mediaset e delle coproduzioni estere. La cosa bella anche del progetto è che noi adesso usciamo dopo 2 anni dalla fine delle riprese per varie vicissitudini, ma è stata venduta in tutta Europa, è già uscita in Germania, uscirà in Francia, in Inghilterra, in Spagna, in Benelux, quindi insomma è stata molto apprezzata, e questo è una cosa bella, ecco, insomma, che ci aggrada. Come hai deciso di strutturarlo? Il percorso è stato lungo, lunghissimo. Inizialmente questa serie doveva farla Sky, poi Sky non ha proseguito nello sviluppo del progetto, poi è entrata invece Mediaset, con mio stupore, perché Mediaset aveva deciso per la prima volta di fare un progetto che era internazionale ed era diverso rispetto alle cose che faceva prima, e quindi ci ha dato veramente una libertà totale e ci ha permesso di lavorare in un modo in cui non eravamo abituati a pensare Mediaset in questa modalità, e devo dire che è stato bello, e devo ringraziare anche Cesarano, Salem, insomma, che hanno seguito la serie col cuore, ecco, pensando veramente alla libertà espressiva del prodotto, e tutto questo poi è stato il valore aggiunto di persone che sono entrate ed hanno messo il cuore nel progetto, da Claudio Santamaria, che ne è il protagonista, ma ci sono tantissimi altri attori di qualità, e devo dire che qua la cosa bella, appunto, per ribadire questo concetto, ci sono almeno 5 esordi che non hanno mai fatto lavori importanti o comunque da protagonisti, quindi abbiamo scelto questo, insomma, grazie anche a Piero e a Maurizio Mangano, che è il casting, dei volti nuovi, e questo è un altro valore aggiunto. Il prodotto ha goduto di una partecipazione emotiva da parte della troupe, da parte dei collaboratori, da parte di tutti, e per me è un orgoglio, perché l'idea che nasce così e poi vedere che comunque strada facendo si legano persone, appunto, come dicevo prima, da Claudio Fava, dallo stesso Ezio Abate, che ha scritto Subur e quindi si è divertito a fare quel ribaltamento che dicevo prima, c'è stato un clima veramente bello, e quindi questo credo che si vedrà. Di tutta questa storia cosa ti ha impressionato maggiormente? Io sono toscano e mi ricordo quando ero piccolo, e comunque si sta parlando degli anni 80, anche in Toscana la parola mafia non si usava così molto con facilità. Insomma, era una parola che, se era possibile, era meglio evitarla da dire in pubblico. Pensare che queste persone l'hanno fatto nel 1958, nel luogo dove nasceva, dove c'è, e hanno osato mettere proprio le facce in prima pagina, Luciano Liggio, che ho scritto pericoloso, wanted, ricercato, lui. Cioè, un atto di coraggio, ecco, il coraggio, ma il coraggio quello vero, proprio dalla radice del cuore, no? Da cui arriva coraggio, cioè buttare il cuore al di là della barricata e ricercare la verità senza se senza mai. Ecco, quello che mi ha colpito è il grande esempio di giornalismo che ci sta dietro, cioè soprattutto oggi, ma poi c'è tutto un mondo, perché anche il racconto dei fotografi, che non è solo Letizia Battaglia che arrivò dopo, ma anche quelli che ci sono stati prima, che noi raccontiamo con un ragazzo molto giovane, sono la storia di 2 fratelli, uno di loro fa il fotografo, che è Giampiero De Concilio, e l'altro è Samuele Segreto. Lui che fa il fotografo, quando io andavo a intervistare le varie persone, sia per il documentario poi dopo per la serie, tra cui i fotografi, ti raccontavano che all'epoca potevi fare uno scatto, e quello era. Eppure quegli scatti erano perfetti, in uno scatto solo raccontavano tutto il mondo di una vicenda, oppure gli articoli dettati al telefono. Mauro De Mauro, che poi successivamente entrerà lui, tra l'altro un personaggio controverso, ma lì ti fa capire la mentalità e l'apertura di Nisticò, perché Mauro De Mauro era uno che aveva fatto parte della decima massa, e nonostante il giornale fosse un giornale del PC, lui capì che Mauro De Mauro era un talento vero che poteva mettersi a servizio e anche cambiare quello che era stato il suo percorso, e lui sparì, tutt'oggi non si sa che si abbia fatto il suo corpo, e quindi cercare di includere questi personaggi che avevano anche una capacità, appunto, dicevo, Mauro De Mauro, di dettare un articolo al telefono con punteggiature e virgole, ed erano perfetti. Cioè, l'articolo veniva copiato da chi stava dall'altra parte e lo ribatteva a macchina, e l'articolo era perfetto, già della lunghezza giusta. Quindi c'era un'arte e un mestiere veramente bello, che noi cerchiamo un po' di restituire nella serie, poi non tutto può arrivare, anche perché poi, insomma, a volte sono anche informazioni che io sento bellissime, ma capisco anche che sono a volte tecniche o di chi si è appassionato a una cosa, però cerchiamo di restituire anche quest'arte, perché è un'arte, sia quella del fotografo di reportage, sia di chi scrive e fa giornalismo. La serie TV L'Ora, inchiostro contro piombo, su Canale 5 per 5 mercoledì dall'8 giugno al 6 luglio 2022. Un saluto e un ringraziamento a uno dei registi, Stefano Lorenzi. A presto! Grazie. Con Thomas Torelli, regista del documentario Il sentiero della gioia, presentato a Roma ad Armonia Mundi giovedì 9 giugno 2022. Ben trovato. Buongiorno Federico, felice di essere con te e con tutti voi. Ce ne parli? Sembra facile. 4 anni di lavoro. L'idea del film è quella di cercare di raccontare la resilienza alla vita, far comprendere agli amici che ci seguono che la gioia in qualche modo è una scelta quotidiana e che non dovrebbe dipendere da ciò che ci succede. Ciò che ci succede dovrebbe essere neutro. Ciò che determina invece la nostra vita è il nostro approccio a ciò che ci succede. Quindi ciò che ci succede non è bello o brutto. Bello e brutta può essere la nostra interpretazione a ciò che ci succede. E infatti nel film parliamo di questo attraverso scienziati, psicanalisti, filosofi di vario genere, e poi attraverso 3 storie vere di persone che hanno apparentemente vissuto cose insuperabili e che invece hanno trasformato in un'opportunità. E questo in qualche modo è il messaggio del film. Come era nato tutto? Perché in qualche modo questo è anche il cammino della mia vita e professionale. Io faccio film solo su cose che in qualche modo mi appassionano, che voglio studiare e che quindi voglio raccontare attraverso il mio studio. Nei film precedenti avevo già parlato di questo in altri modi, però sentivo l'esigenza di approfondirlo in maniera più completa e quindi ho deciso di fare questo film. Poi tu che sei cinematografaro, insomma qualcosa di esperto di cinema, comprenderai certe dinamiche. All'inizio nel film c'era soltanto la parte, diciamo, degli esperti, chiamiamola così. Dopo già 2 anni di lavoro mi sono reso conto che quella parte lì non bastava, perché riuscivamo a raccontare bene la teoria, ma serviva in qualche modo qualcosa di pratico, un esempio. E quindi ho bloccato il montaggio e ho cercato delle storie reali che potessero trasferire il messaggio in maniera più pratica, più concreta. E quindi ho messo delle storie vere che sono in qualche modo il cuore e l'anima del film. Ecco, come lo hai strutturato a partire da queste interviste ad esperti e a queste 3 storie? Sostanzialmente ci sono queste 3 storie che partono dall'inizio e arrivano in qualche modo alla conclusione, quindi si racconta prima la problematica e poi come loro sono riusciti a interpretarla e trasformarla in un'opportunità. E poi all'interno di queste 3 storie ci sono intervallate Salvatore Brizzi, Alberto Simone, che tra l'altro ci sarà anche alla proiezione qui a Roma, Francesca Poli, che è una grande psicanalista, Germano Biava, che è un medico ricercatore, grande scienziato, tutte persone che portano in qualche modo la loro conoscenza più rispetto all'argomento in maniera astratta. Quindi c'è questo incrocio tra storie vere e parte più astratta, che però serve a far comprendere quello che stiamo raccontando da tutti i punti di vista, sia emozionale che poi pratico. Com'è stata la scelta degli interlocutori e interlocutrici? È sempre complessa, è una delle parti più importanti del lavoro, no? Sia la scelta dei personaggi, dei protagonisti, che degli esperti avviene attraverso tanto studio, cioè che poi diventa determinante, no? Riuscire a far comprendere tutto quello che si sta raccontando in maniera chiara, in maniera emozionante. E quindi per riuscire a raccontarlo attraverso vari punti di vista abbiamo coinvolto tante persone diverse tra loro. C'è la parte filosofica che si incrocia con quella della psicologia, che ci parla di quanto, insomma, diventa fondamentale trovare il proprio talento per riuscire a esprimere anche la gioia e vivere in quell'energia, no? In quello stato. Dal punto di vista psicologico ci raccontano che se tu riesci a trovare te stesso, a trovare la tua via, e tutto comincia a funzionare. Dal punto di vista filosofico, ce lo dicevano gli antichi greci, 4.000 anni fa parlavano di eudaimonia, cioè eu è il bene, daimon è il nostro demone, la nostra ispirazione, il nostro fuoco sacro. Quindi se tu trovi il bene della tua anima, in qualche modo tutto comincia a funzionare. Nel film poi si parla della parte in qualche modo anche quantistica, quindi la fisica quantistica, cioè noi siamo un campo di energia, un campo vibrante, la qualità della vibrazione che emaniamo determina ciò che ci succede fuori, quindi comprendere che in realtà è tutto dentro di noi. Molto spesso la gente vuole combattere fuori per risolvere ciò che invece potrebbe risolvere soltanto cambiando la sua percezione e cambiando e lavorando dentro. E le 3 storie invece come le hai trovate? Anche lì studiando, volevo 3 storie che fossero diverse tra loro e forti comunque, diverse tra loro sia come storia che come carattere dei personaggi, Infatti c'è una donna che è nata con un problema fisico, poi c'è invece un'altra ragazza che ha avuto invece questo problema a metà della sua vita, una ex campionessa olimpionica, a un certo punto ha avuto un problema per cui è dovuto totalmente reinventarsi, e un ragazzo che ha avuto un tumore al cervello e che ha trasformato la vita e ha trasformato anche lì in un'opportunità. E quindi raccontano queste tre storie, ma sono tre persone totalmente diverse tra loro, un uomo, due donne, una che c'è nata, una che è successo. Però è sorprendente vedere come in qualche modo loro sono riusciti totalmente a trasformare questa cosa, la loro esperienza, in qualcosa di propositivo. Non dico bello o brutto, dico qualcosa che poi è diventata un'opportunità. Mahatma Gandhi, no? Ci diceva: la vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia. Questo è in qualche modo il senso del film, no? Chiudere l'ombrello e dire: io, a prescindere da come va, ballo. Ci dai tutti i riferimenti web? www.uam.tv, che è UAM, l'acronimo di Un Altro Mondo, che ho fatto il 2014, da cui poi è nata la TV, e si può iscrivere alla TV e vedere tutti i film, insomma, di questo genere, e tra un po' anche questo film qua, che uscirà tra un mesetto nella TV, o comunque alla newsletter per sapere tutte le proiezioni e le varie cose. O altrimenti thomastorelli.com è il mio sito, anche lì si può iscrivere per seguirci. E il 9, giovedì, visto che siamo a Roma, facciamo una proiezione ad Armonia Mundi, una libreria, che però ha anche una sala dietro la libreria in cui si possono fare proiezioni e cose. E ci sarà anche Alberto Simone che farà un intervento, una piccola conferenza. Il documentario Il Sentiero della Gioia a Roma, libreria Armonia Mundi, giovedì 9 giugno 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Thomas Torelli. A presto! Grazie, un abbraccio a tutti, grazie Fede. Con Lorenzo Costantino dell'Istituto Polacco di Roma per presentare la proiezione del film 1970 di Tomasz Wolski da Roma all'Apollo 11 martedì 14 giugno 2022. Ben trovato. Ben trovato a tutte e a tutti. Che film è questo? 1970 è un film documentario realizzato da Tomasz Wolski, che è uno dei rappresentanti più interessanti della nuova scena del documentario polacco, realizzato mettendo insieme materiali d'archivio che erano registrazioni audio e video dei servizi segreti durante il periodo comunista in Polonia. Quindi erano materiali segreti ai tempi e per la prima volta, insomma, portati sullo schermo, con un abile lavoro intanto di ricerca approfonditissimo di Tomasz Wolski e poi un abile lavoro di montaggio. E in più questo 1970 ha una caratteristica, che è quella di utilizzare materiali audio. Appunto, non essendoci video, le registrazioni audio sono state accompagnate da animazioni. I pupazzi, insomma, in stop motion accompagnano le parti con le registrazioni audio. E viene fuori un lavoro veramente interessante, di tipo storico, ma con una prospettiva, ecco, molto profonda sul tema della libertà, sul tema del controllo da parte dell'autorità, insomma, che riguarda ovviamente non solo la colonia del 1970 del titolo. E aggiungo, scusate, non l'ho detto, ma l'occasione è quella degli scioperi scoppiati nel 1970 in Polonia in seguito all'aumento dei prezzi, la gente è scesa in strada e a quel punto interferirono, ecco, le autorità a bloccare tutto anche con la violenza. Ecco, ho riassunto brevemente il contenuto di quest'opera veramente sorprendente. Ecco, un po' in parte ci hai risposto, ve lo volevo sapere quali sono gli elementi che più ti hanno convinto di questo lavoro. Convinto me, ma ha già anche avuto numerosi riconoscimenti, il più prestigioso al Festival Vision du Réel, quindi Festival del Documentario, e quello che ha convinto è, a livello tecnico, ecco, proprio questa grande ricerca d'archivio, grande lavoro che precede, insomma, su materiali storici, è questa trovata dell'animazione con un montaggio che, appunto, guardando il film è come se si seguisse un thriller, insomma, si cerca di capire cosa succederà, un thriller politico, ecco. E poi naturalmente il contenuto. Che circuitazione ha avuto all'estero? Il film è stato presentato, oltre che a Vision du Réel, a numerosi festival internazionali, anche in Polonia, ha ricevuto numerosi premi. In Italia è la prima volta che viene mostrato a Roma, e in generale la seconda, ecco, la proiezione, volevo sottolinearlo, oltre che con l'Apollo 11, organizzata in collaborazione col Trieste Film Festival, è proprio il Trieste Film Festival con cui da anni l'Istituto Polacco collabora. Il festival l'ha portato, ecco, per la prima volta in Italia. Quindi siamo anche per questo molto contenti che finalmente si possa vedere a Roma, poi speriamo che si possa vedere anche in altre città. A questo proposito, ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Potete trovare le informazioni sul sito dell'Istituto Polacco. Ricordo che la proiezione è all'interno del Festival in Corso Polonia, il Festival della Cultura Polacca a Roma. Quindi basta cliccare sul calendario di Corso Polonia. All'interno troverete quindi la proiezione 1970 con tutti i recapiti telefonici, mail, le istruzioni per prenotare. Ma aggiungo, la proiezione di 1970 sarà accompagnata all'Apollo 11 il 14 dall'incontro con il regista. Due giorni dopo, il 16 giugno, anche questa proiezione organizzata in collaborazione col Trieste Film Festival, proietteremo invece all'Istituto Polacco l'altro film realizzato con lo stesso tipo di poetica da Tomasz Boski, Un paese qualunque, all'Istituto. Il documentario 1970 di Tomasz Boski a Roma, allo spazio Apollo 11, martedì 14 giugno 2022. Un saluto e un ringraziamento a Lorenzo Costantino dell'Istituto Polacco di Roma che ha curato l'evento. A presto! Grazie a voi, a presto, ciao ciao! Con il regista Raul Garcia per presentare la campagna di crowdfunding per il documentario L'altra faccia dell'impero. Ben trovato. Grazie, buongiorno a tutti e a tutte. Buongiorno. Ci parli di questo lavoro? Questo lavoro è nel mio cuore da sempre, perché premetto che è un documentario su un quartiere che si chiama Quartaccio ed è alla periferia nord-ovest di Roma. È un piccolo quartiere nato a fine anni 80, dove la metà delle case sono state assegnate a famiglie e persone, gente che veniva da altre occupazioni, e per una buona metà sono case che fine anni 80 sono state occupate e poi nel tempo sanate, quindi assegnate agli occupanti. Ed è un quartiere nato con un progetto che voleva vedere questo quartiere popolare, che di solito sono questi quartieri che venivano costruiti in situazioni un po' sia all'estrema periferia, però in situazioni urbane un po' particolari. Questo quartiere è stato costruito su una collina, quindi in campagna, con degli spazi molto larghi, con alberi, panchine e quant'altro, solo che poi nel tempo è un quartiere che è stato completamente abbandonato e anzi non aveva vie di comunicazione, nemmeno autobus, ed è stato proprio un ghetto negli anni 90, dove lo spaccio soprattutto di eroina, ma anche di cocaina, di hashish e marijuana erano protagoniste di questo quartiere. Poi è arrivato l'autobus, è stata aperta una strada che collegava la Torre Vecchia, Prima Valle, tutto quel quadrante con il raccordo anulare sulla Boccea, e quindi è un quartiere che è cominciato ad essere appunto frequentato, le macchine ne passavano tantissime, anche mezzi di trasporto, e quindi è diventato quasi normale, tra virgolette. Però è stato sempre un quartiere messo molto emarginato, con squadre di povertà estrema e con delle gravi conseguenze dal punto di vista sociale ed economico. Io sono cresciuto in quel contesto. Crescendo in quel contesto ho conosciuto delle realtà di amici, perché io poi ho vissuto quel quartiere, ne ho fatto parte, ho avuto delle comitive lì, sono cresciuto lì e quindi ho vissuto da vicino il degrado totale, sia dal punto di vista appunto urbano che dal punto di vista umano, le difficoltà incredibili, la povertà. Io ho avuto la fortuna di avere tanti stimoli dalla parte della mia famiglia e non solo, e quindi in qualche anno ne sono uscito da quel ghetto, però io ho visto amici morire e non solo, e quindi mi sono reso conto anche delle ingiustizie sociali che sono protagoniste in questi quartieri. Poi sono diventato un operatore di ripresa, poi un filmmaker, appunto un regista, sono sempre stato appassionato di cinema, di fotografia cinematografica. ed è arrivato il momento adesso a 45 anni di mettere in atto questo progetto che è stato sempre nel mio cuore, cioè quello di raccontare le esistenze di chi vive questo quartiere, che è appunto il Quartaccio, e raccontarlo però al di fuori delle solite narrazioni, no? Dove il protagonista è sempre la droga, la mafia e la violenza, ma andare a vedere cosa c'è dietro, perché questo è tutto un sintomo di altro, quindi io sto raccontando questo altro, no? L'esistenza di persone, di famiglie che vivono questi disagi, non solo, anche famiglie diciamo un po' più tra virgolette equilibrate, però è un punto di vista più osservazionale che va a scoprire delle carte che dal punto di vista del racconto mainstream televisivo sono state sempre carte rimaste coperte, ecco. Io poi tra l'altro nei media mainstream ci lavoro da 25 anni, quindi sono stato anche partecipe, a mio malgrado, di determinate narrazioni nelle periferie che sono sempre le stesse poi. E quindi io mi trovo adesso a voler raccontare questo contesto in una maniera completamente diversa, molto personale. Ci parli di questa campagna di crowdfunding? Il titolo, L'altra faccia dell'impero, è abbastanza chiaro, mostrare appunto l'altra faccia di quello che è appunto l'impero occidentale, no? Che crea appunto questi ghetti, queste ingiustizie sociali con le varie conseguenze, e quindi il titolo è dovuto a questo. Riguardo la campagna di crowdfunding, io ho iniziato a fare le riprese già l'estate scorsa e continuerò penso almeno fino al prossimo inverno. Ho tanto materiale archiviato e ho una montatrice che mi sta aiutando, però poi da settembre inizieremo diciamo a dare forma a tutto quanto, e quindi sarà un vero e proprio lavoro sia per lei ma anche per altri collaboratori che arriveranno e che comunque invece di lavorare saranno dietro a questo progetto, e la mia intenzione è proprio coprire le spese di post produzione di questo, perché per le riprese ho i mezzi ma per la post produzione non li ho, e poi c'è tanto lavoro da fare, quindi è giusto che persone che rifiutano altri lavori e che stanno a piedi a questo progetto, è giusto che in parte, anche se poco, vengano pagate. Ecco, questo è l'obiettivo del crowdfunding fondamentalmente. Poi insomma chi sta nel campo sa benissimo che la post produzione è una delle parti più costose per confezionare, per chiudere il film. Questa campagna di crowdfunding è su produzionidalbasso.com sotto la categoria documentari e inchieste, e il titolo è L'altra faccia dell'impero. Per ora, siccome c'è stata grande partecipazione, di questo ne sono molto felice perché ho avuto grandi iniezioni di fiducia e questo mi sta dando una grande spinta, per ora si trova proprio sull'home page tra i primi progetti. La campagna di crowdfunding per il documentario L'altra faccia dell'impero. Un saluto e un ringraziamento al regista Raul Garcia. A presto! Grazie, grazie a tutti e a tutti e a te Federico. Un abbraccio. Con Franco, uno dei curatori della seconda edizione della rassegna di cinema curdo Venti di Mesopotamia a Roma. Dall'8 al 12 giugno 2022, ben trovato. Salve. Raccontiamo cos'è questa rassegna. Questa rassegna quest'anno si lega ad una iniziativa lanciata dal Comune del Cinema del Rojava, poi magari ci torneremo specificamente su che cos'è questa e quando è nata, che si svolgerà in vari paesi europei e sono dei corti, lungometraggi e documentari prodotti da cineasti curdi, e questi film sono nati da un percorso che è stato messo in moto dopo che è stata dichiarata nel nord-est della Siria un'autonomia, e quindi si è cercato di costruire un percorso che portasse alla produzione in proprio di cinema, qualcosa che era mancato in quella regione nel tempo, e sono stati messi in moto sia dei percorsi di proiezione di film in varie città, come anche dei corsi di formazione per tutto ciò che attiene al cinema, tipo sceneggiatura, fotografia, illuminazione. E questo ha portato pian piano alla costruzione di giovani che si sono avvicinati, si sono formati, e anche alla collaborazione di operatori del cinema provenienti anche da altre parti del Kurdistan, e quindi si è cominciato a produrre questi film che tentano di rappresentare l'immaginario proprio dei curdi, senza che questo venga filtrato e rappresentato dai media, diciamo, mainstream, come è successo con alcuni film che in realtà hanno soltanto rappresentato ciò che interessava agli occhi occidentali, senza poi andare a scavare le ragioni profonde che hanno portato molte persone a fare una scelta rivoluzionaria di costruzione di un futuro possibile. 10 titoli in 6 diversi luoghi. Sì, è proprio perché questa iniziativa che si svolgerà in vari paesi europei si chiama proprio Rewind Cinema Itinerante, proprio perché riproduce le modalità con cui è stato costruito questo percorso di costruzione di un immaginario cinematografico in Siria, in Rojava. Ci dici qualcosa di questi lavori? Sono lavori diversi, alcuni sono documentari. Il primo giorno di apertura della rassegna, che sarà al cinema Quattro Fontane, verrà proiettato un film il cui titolo è La stagione delle more. Questo film è tratto dal romanzo scritto da Murat Turk, che è un prigioniero politico turco. Il film racconta, proprio riprendendo dall'esperienza personale dell'autore del romanzo, negli anni 90 il suo avvicinamento alla guerriglia è un episodio che lo vede restare indietro, scegliere di restare indietro perché è ferito e poi riuscire, superando innumerevoli ostacoli, a raggiungere le proprie linee, aiutato dagli abitanti di un villaggio curdo, abitanti che lo aiutano nonostante ci sia pericolo di vita per loro stessi, schivando squadroni della morte, eccetera. Quindi questo film, diciamo, ha una doppia valenza, perché ci rappresenta sia la realtà che è stata vissuta in Turchia, nell'est, nel Kurdistan turco, negli anni 90, ma anche il periodo di avvicinamento e l'ingresso in una realtà come quella della guerriglia della resistenza. La scelta di questi 6 diversi spazi? Abbiamo cercato spazi che fossero anche non sempre, diciamo, i nostri spazi, io dico nostri perché siamo su Radio Onda Rossa, insomma, ma che fossero anche spazi aperti alla società più in generale, alla società civile, proprio perché lo scopo è anche quello di far conoscere questa esperienza al di là di quello che può essere percepito attraverso i media mainstream, insomma, e quindi incontrare altri, perché ovviamente tutto questo nasce all'interno di un'esperienza che vuole proporre un paradigma nuovo, un paradigma di convivenza tra etnie, credi religiosi diversi. È un esperimento che io credo che sia sotto attacco in generale, proprio perché in realtà mette in discussione il nostro modo di intendere la società e la convivenza, insomma. Altri film puntano proprio su questo elemento. Ci dai anche tutti i riferimenti internet per saperne di più e per i dettagli? Credo che stiano oggi costruendo una pagina Facebook, però al momento non ci sono pagine. Ovviamente c'è la pagina di Rete Kurdistan. Seconda edizione della rassegna di cinema curdo, Venti di Mesopotamia, a Roma dall'8 al 12 giugno 2022. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Franco. A presto! A presto, ciao, grazie. Con Lia Fursi, una delle curatrici della 25esima edizione del Festival Cinema Ambiente a Torino dal 5 al 12 giugno 2022, ben trovata. Buongiorno a tutti. Spieghiamo cos'è per chi non lo conoscesse. Il Festival Cinema Ambiente, come dice il nome stesso, è un festival che si occupa e presenta film a tematica ambientale. Quest'anno è giunto alla 25esima edizione e quindi sono un quarto di secolo che presenta al suo pubblico film provenienti da tutto il mondo che affrontano le tematiche ambientali in tutte le loro sfaccettature possibili e immaginabili. Quest'anno come si caratterizza? Di nuovo un'edizione finalmente, diciamo, normale post pandemia, per cui con tanti film e tanti ospiti. Abbiamo 87 film provenienti da 25 paesi del mondo, suddivisi nelle categorie classiche del festival, cioè il concorso internazionale, il concorso dei cortometraggi, la sezione dedicata al cinema ambientale italiano, il panorama, la proiezione dei film dedicati ai più piccoli, agli Eco Kids, e eventi con presentazioni di libri, panel sulla comunicazione scientifica, concerti, insomma, un'edizione molto ricca per festeggiare. Quali sono le tematiche più percorse? Sicuramente i cambiamenti climatici sono una delle tematiche più affrontate da parte del cinema ambientale in tutto il mondo, e l'altra è veramente l'interconnessione tra economia, sistemi finanziari, stili di vita sostenibili e tutto ciò che è appunto cambiamento climatico, inquinamento, quindi come tutto sia interconnesso e il problema ambientale non sia solo un problema ambientale e scientifico, ma è un problema sociale ed economico. Come sarà strutturato per luoghi, orari, sezioni? Dunque, il festival si svolge in presenza al Cinema Massimo a Torino e le proiezioni sono dal 6 giugno fino al 12, a ingresso gratuito, volendo su prenotazione sul sito www.festivalcinemaambiente.it, e poi dal 7 al 21 giugno online in streaming, sempre a prenotazione gratuita, tutto il programma del festival. Per quanto riguarda gli ospiti, saranno presenti molti degli autori e delle autrici? Sono presenti praticamente tutti gli autori della sezione Made in Italy e numerosi degli autori delle sezioni internazionali. Quelli che avrebbero comportato voli transoceanici abbiamo in realtà preferito invitarli online in modo da non impattare troppo con le emissioni di CO2 per i voli. E abbiamo alcuni ospiti speciali quest'anno, che sono ad esempio Vandana Shiva, che terrà un interessante talk insieme a Don Luigi Ciotti sulla terra contro la guerra, e poi i Marlene Kunz, con cui inauguriamo in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente il 5 giugno, che ci racconteranno tutto il loro percorso che li ha portati alla creazione del loro nuovo album Karma Klima. Ci dai anche tutti i riferimenti web per i dettagli? Sicuramente tutte le informazioni sono sul sito, che è www.festivalcinemaambiente.it. 25esima edizione del Festival Cinema Ambiente a Torino dal 5 al 12 giugno 2022. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Lia Pulzi. A presto! Grazie a voi e vi aspettiamo al cinema. Con Steve Della Casa, direttore artistico della terza edizione del Festival I Luoghi dell'Anima a Sant'Arcangelo di Romagna dall'11 al 18 giugno 2022, ben trovato. Eccomi qua, buongiorno a tutti voi. Raccontiamo cos'è. È un festival ispirato alle parole, al pensiero e all'opera di Tonino Guerra, il grande scrittore nonché sceneggiatore di Fellini, che diceva che ognuno di noi ha dei luoghi dell'anima e che il cinema e anche la letteratura devono saperli raccontare. Questo era il suo pensiero. Andrea Guerra, suo figlio, che è un grande musicista proprio per il cinema, ha raccolto questa idea e ha fondato questo festival, che è un festival soprattutto di incontri, di confronti, di scambi culturali, più che di competizioni oppure di proiezioni una dopo l'altra. Un festival in cui tutto avviene molto a misura d'uomo, ci sono vari ospiti importanti, insomma, che vanno da Franco Nero a Pupi Avati, da Caterina Caselli a Mogol, da Riccardo Milani a Ricky Tognazzi, insomma, che vengono giorno dopo giorno a raccontare qual è il loro luogo dell'anima, perché il cinema è il modo migliore per raccontare i posti dell'anima. Come sei arrivato a incrociare questo festival? Beh, Tonino Guerra lo conoscevo, ma soprattutto sono molto amico di Andrea Guerra, appunto di suo figlio, che è un musicista che ha fatto anche le musiche per un film che ho fatto recentemente, che è andato a Venezia quest'anno, cioè Django e Django, quindi noi ci conosciamo abbastanza bene. parte l'idea è naturalmente sua, però è stato fondamentale incontrarsi e avere uno scambio su questo terreno. E abbiamo progettato insieme tutte e tre le edizioni del festival che sono già svolte e quella che si svolgerà adesso. Come sarà articolato in questa settimana? Ci sono proiezioni e incontri sia a Rimini sia a Santa Casilda di Romagna, sia anche a Pennavilli, tre paesi, insomma, tre città che a chi ama il cinema dicono qualcosa, insomma, per Fellini, per Tonino Guerra, per tanti altri motivi, per il teatro e così via. Ci sono degli incontri di pomeriggio tutte le sere, come dicevo ci sono delle proiezioni anche di cortometraggi, di documentari, ma soprattutto c'è grande spazio e grande attenzione per gli incontri, le masterclass, le conferenze, gli incontri. Com'è stata la scelta? Quali sono stati i criteri per i film? Abbiamo scelto dei film che rappresentino proprio quello che dicevamo, cioè quanto il cinema possa essere veramente lui stesso un luogo dell'anima, cioè vedere certi film può in qualche modo essere un terreno quasi di crescita collettiva, un'occasione di scambio. Li abbiamo scelti con questo criterio, pensavamo a dei film che avessero questa componente al loro interno in maniera molto forte, faccio un esempio, non so, Calci in culo piuttosto che altri film recenti usciti, e in questo modo cerchiamo anche di dare una mano a che il cinema ritrovi l'importanza che ha avuto, che la pandemia e tutto quello che è successo in questi ultimi due anni, come sappiamo, ha un po' messo in discussione. Nel complesso quante sono le opere e saranno accompagnate tutte da autori e autrici? Sì, sì, prevederà l'incontro con qualcuno, o il regista, o lo sceneggiatore. Poi ci saranno appunto documentari, ce ne sono 8 lungometraggi, 8 documentari, un concorso di cortometraggi e alcune proiezioni speciali che accompagnano alcune masterclass. Proietteremo La casa delle finestre che ridono in maniera da fare anche un omaggio a Lino Capolicchio, che sono mancati da poco, che sono due attori con lui ha lavorato molto, e poi è un film girato tutto dalle parti, insomma, della Romagna, quindi la fa vedere anche da un punto di vista inedito e insolito. Come sarà nell'arco della giornata il festival? Come si svilupperà? Ci saranno degli incontri a partire dalle 6, presentazioni di libri e così via, cortometraggi, e poi la sera ci sono 2 proiezioni, una proiezione speciale e film di lungometraggio oppure un documentario. È articolato in questo modo, cioè diciamo che i momenti di socialità sono quando cala il sole e la gente ha anche più voglia di stare insieme e di divertirsi, quindi conti usciamo anche da due anni piuttosto difficili, tutto quello per stare insieme credo che sia un benvenuto. Spazi all'aperto e al chiuso? Tra gli spazi al chiuso sono molto lieto di annunciare che c'è anche il famoso Cinema Fulgo, che è stato ristrutturato dalla regione Emilia-Romagna e che, come sappiamo, è un luogo felliniano per eccellenza. Terza edizione del Festival I Luoghi dell'Anima a Sant'Arcangelo di Romagna e Rimini dall'11 al 18 giugno 2022. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Steve Della Casa. A presto! Grazie. Grazie a voi, arrivederci. Con Maurizio Di Rienzo, curatore della rassegna Docu e Arena, a Roma, Casa del Cinema, per 10 mercoledì dal 15 giugno al 14 settembre 2022. Ben trovato Maurizio. Grazie, buonasera a voi. Ciao. Innanzitutto la scelta dell'estate, perché il secondo anno consecutivo la pandemia ha un po' cambiato le cose. Durante l'inverno non è stato facile né l'anno scorso né quest'anno organizzare qualcosa. La Casa del Cinema è stata per fortuna ripresa d'assalto a inizio anno, da febbraio-marzo. Però l'idea di portare all'Arena, in cui c'è un ingresso libero come sempre e in cui sotto le stelle forse alcune cose vengono godute meglio, è il ciclo di documentari. Non saranno mercoledì consecutivi, infatti i primi 3 sono il 15 giugno, il 22 giugno e poi si salta dritto per dritto al 27 luglio e da allora in poi, fino al 14 settembre, sempre di mercoledì, alle 21:30 i primi 2 e poi alle 21 gli altri per questioni poi di luce, eccetera, ecco che partono le proiezioni. Premessa, il 15 giugno l'apertura è con il film Marina Cicogna, La vita e tutto il resto, di Andrea Bettinetti, che sarà preceduto da un incontro con alcuni dei documentaristi e produttori appunto dei film che avrò in rassegna. Sono quasi tutti e 10 dei ritratti. È la seconda volta, forse il terzo anno, compreso un anno precedente ancora, prima della pandemia, in cui ci specializziamo nel la focalizzazione di storie di vita legate non solo al cinema, anche allo spettacolo e anche oltre, perché crediamo che Giorgio Cosetti, direttore della Casa del Cinema, in perfetta sinergia editoriale, possano comunicare il senso di quello che stiamo vivendo, cioè esempi che in un modo o nell'altro sono riusciti a fare delle cose, a inventare delle cose, a creare delle cose, a cambiarle. Se cominciamo con Marina Cicogna, la nipote del Conte Volpi che fondò la Mostra del Cinema di Venezia, ecco la grande produttrice internazionale, oggi 88enne, irriducibile e assolutamente granitica, e la produttrice di alcuni film di Pasolini, l'ha diviso con Alfredo Bini il lavoro del cinema di Pasolini, lei come produttrice, di Elio Petri, pensiamo a Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, di Bolognini e di altri autori, quindi sotto questo aspetto una produttrice illuminata, apripista. E la vita è tutto il resto, è quello che ha passato, frequentando la Hollywood di un certo tipo, frequentando il grande cinema europeo. Lei si racconta senza sconti, è un lavoro prodotto da Riccardo Biadene di assoluto valore, che è stato fra i finalisti, peraltro, ai Nastri d'Argento come documentari su cinema, cultura e spettacolo. Sono vari ritratti di varie personalità in vari campi, artistici e non solo. Ecco, questa attenzione sempre più avanzata del documentario verso appunto i ritratti, come la vedi? Credo che sia la voglia innanzitutto di focalizzare non agiograficamente e non con la voglia soltanto di un tributo, ma la voglia proprio di entrare nel cuore delle persone ancora viventi che hanno fatto e stanno facendo ancora qualcosa, per spiegare il loro tempo passato e il loro tempo presente, in un momento in cui queste cose si intrecciano sotto un ombrello negativo, preoccupante per tanti aspetti. E quindi io credo che la voglia dei documentari sia anche di trovare il modo di raccontare le storie umane attraverso gli archivi, il footage, che in Italia non è solo proprietà dell'archivio Luce, ma anche dell'AMOD, dell'archivio della RAI e di altri archivi di film di famiglia. È piena l'Italia, per fortuna, di questo tipo di archivi. È fondamentale, perché l'uso del footage bilanciato con le interviste di oggi e la realtà di oggi assolutamente crea un cortocircuito interessante, stimolante e virtuoso, che ci rende tutti partecipi di un passato recente che ci sembra mitico perché sembra tanto lontano. In realtà è un passato che deve ancora ispirarci, per forza. Per resistere, che è un verbo che si usa troppo, ma stavolta credo che c'entri. Si parla anche di omosessualità e genere, ma si parla soprattutto di cinema e teatro. E anche di musica, perché abbiamo due ritratti. Il 22 giugno proseguiamo con Caterina Caselli, Una vita, 100 vite. Avremo un contributo di Caterina Caselli che non può essere a Milano impegnata in quel giorno, ed è di Renato De Maria, del prolifico, articolato, eclettico regista Renato De Maria, questo ritratto. Caterina Caselli peraltro ha avuto la targa come migliore protagonista, perché c'è un essere protagonisti, nel senso migliore del termine, anche nei documentari, non solo nei film di finzione, perché davvero come ha saputo raccontarsi del suo essere una ragazza del caschetto d'oro, quei successi per 4-5 anni impressionanti fra fine anni 70 e inizio 70, poi passare dall'altra parte, diventare una discografica, conoscendo Piero Sugar, diventando sua socia, compagna e co-direttrice della casa editrice musicale Sugar, è assolutamente unico, un cammino straordinario di talent scout, di donna, di persona che viene da un ambiente rurale dell'Emilia Romagna, però di una famiglia illuminata per certi aspetti, come un film anomalo, senza fine, programmato il 31 agosto. La canzone è quella di Gino Paoli, il titolo viene da lì, Ornella Vanoni, incontrata dalla regista Elisa Fuxas, anche questo finalista ai Nastri, in questo documentario, è presentata alle giornate degli autori di Venezia dell'anno scorso, la capricciosa, irriducibile, straordinaria, iconica Ornella Vanoni si racconta e si scontra con la personalità stimolante di Elisa Fuxas, ne viene fuori un pezzo di vita più che un documentario. Come si svolgerà ogni singola proiezione? Mercoledì 15 faremo una carrellata con gli ospiti presenti che presentano i loro documentari, quelli degli appuntamenti successivi, e poi introdurrò Marina Cicogna con Andrea Bettinetti e tutto il resto della troupe. Quando è possibile avremo ospiti alla Casa del Cinema, penso che sarà quasi sempre possibile, e il regista e il produttore, e quindi breve introduzione, qualche minuto e poi il film. Riferimenti web per i dettagli? Il sito della Casa del Cinema. Volevo segnalare ancora Let's Kiss, storia di una rivoluzione gentile, Franco Grillini, il 27 luglio, regia di Filippo Vendemiati, Nastro d'Argento per il cinema del Reale quest'anno, La vita straordinaria di Franco Grillini, in lotta ancora oggi con tutti gli acciacchi per diritti civili inalienabili e indiscutibili. Quello che ha fatto lui, ma è anche il suo privato, nel senso migliore e più civico del termine. È un bellissimo lavoro che ti prende minuto dopo minuto. Vorrei segnalare che gli altri sono sono dedicati a Giorgio Strehler, al Django e Django memorabile, spaghetti western di Sergio Corbucci, che è in Tarantino, uno dei suoi ammiratori, fin di Luca Rea e Steve Della Casa, la macchina delle immagini di Alfredo Cilli, Roland Seiko, archivista del Luce Sommo, che ha raccolto sull'Albania e su un operatore perso tra il fascismo invasore e il comunismo che arriva qualche anno dopo, con la storia di un Alfredo C che insegna a tutti come fare il cinegiornale di propaganda, ed è un lavoro che attinge molto al passato, e Luigi Proietti, detto Gigi, di Edoardo Leo, e poi il nostro Edoardo, dedicato a Edoardo De Filippo, avallato dalla famiglia, un Edoardo più intimo, e il nostro Zulu Agas di Flavio Montini, opera prima, premio Valentina Pedicini, dai Nassi d'Argento, che cito continuamente, ma è quello un po' stato una sorta di setaccio ideale. Sono queste le 10 storie di Docu e Arena, Casa del Cinema, 10 mercoledì non consecutivi, quando tramonta il sole, vamos alla Casa del Cinema, dal 15 giugno al 14 settembre, ingresso libero. Prenotate, però. Prenotate. Ciao, grazie, grazie, ciao. Con Andrea Paco Mariani di OpenDDB Distribuzioni dal Basso per le consuete novità mensili del portale. Ciao Paco, ben trovato. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutte e tutti. Partiamo innanzitutto da cosa succede in sala e in streaming in parallelo. Innanzitutto vi ricordiamo che siamo in sala con due film, uno direttamente prodotto da noi, che è il film Sarura, The Future is a No Place, del nostro Nicola Zambelli, realizzato in Palestina, cui trovate tutte le date sia sui canali social che sul sito sarurafilm.com, e anche le modalità per aiutarci a diffondere il film nei territori. Sempre in sala abbiamo il potentissimo Declaration of Love, di cui abbiamo parlato la scorsa volta, e se non sbaglio avete fatto anche l'intervista a Marco, l'autore. Sì. Film assolutamente molto molto potente, non a caso era anche in cinquina in Assi d'Argento 2022, che vi consigliamo di ricercare online e di vedere le varie città in cui sta andando piano piano dal punto di vista delle proiezioni in sala. Che la situazione in sala sia ancora difficoltosa lo sappiamo tutti purtroppo, però piano piano insomma un po' di miglioramento lo stiamo notando. Sempre sull'ibrido sala stream vi segnaliamo che a partire da oggi in collaborazione con OpenDDB ci sarà una sezione di circa 60 opere di Cinema Ambiente 2022 anche in sala digitale, quindi non solo in presenza a Torino ma anche lo storico festival che è da sempre a Torino e quest'anno compie 25 anni, ma sarà anche in modalità stream, una selezione del programma e in collaborazione con la nostra piattaforma. Vi segnalo invece sui lanci streaming del nostro catalogo, due titoli su tutti, I'm Still Here, che è un nostro film produzione SMK per la regia di Cecilia Fasciani, in collaborazione con l'Associazione Plus di Bologna, è il film che abbiamo fatto uscire il 1° dicembre dello scorso anno in concomitanza con la giornata internazionale per la lotta all'HIV. Il tema ovviamente centrale del film è la situazione dell'HIV in Italia e nel mondo nel quarantennale della prima diagnosi, e dopo un tour di sala adesso è disponibile anche on demand e streaming sulla nostra piattaforma. Vi segnalo poi anche Piccola Polis, che è un documentario molto bello sull'esperienza dell'asilo nel bosco e della Piccola Polis per l'appunto, che è un'esperienza didattica nella zona di Ostia Antica. È un film molto bello, tra l'altro l'autore Filippo Maria Grecchi è già un autore del nostro catalogo, abbiamo diversi suoi film, tra cui Canapa Nostra, che fu un film che uscì qualche anno fa e che fece molta diffusione sullo stream. Abbiamo inserito anche un film che ha quasi 20 anni, ma ci teniamo molto ad avere in catalogo, che è il film che si chiama Felice e racconta la storia di Felice Pignataro, oltre ad essere stato un artista geniale, è ormai scomparso da 18 anni, è anche stato il fondatore del Gridas e di tutta la rete di Scampia che oggi conosciamo e che collabora con noi da tanti anni su diversi progetti territoriali nella zona di Napoli. È un film che mettiamo anche a disposizione gratuitamente, perché ovviamente è un'opera che ha un valore aggiunto per noi ed è appunto già disponibile online da diverso tempo, e adesso l'abbiamo messo anche a disposizione del nostro catalogo e della nostra community. L'ultimo, ma non meno importante, vi segnaliamo anche due libri in uscita. Abbiamo fatto un accordo, abbiamo anche una sezione ormai abbastanza grande, anche dedicata alle editorie indipendenti, e abbiamo fatto un accordo con l'END, che è una casa editrice indipendente, e stiamo aiutando la casa editrice con la diffusione di due libri realizzati da Ezella Alcù, spero di aver detto nel modo corretto il suo nome. Il primo è Senza chiedere il permesso e il secondo è Il fratellino di mio fratello. Sono tutti libri dove il perno centrale del racconto è la causa curda ed è un tema che, come sapete bene, sia sul cinema che sull'editoria abbiamo sempre curato con molta attenzione e ci fa molto piacere adesso accogliere queste ulteriori opere nella sezione editoria del nostro catalogo. Paco, un abbraccio e alla prossima! Grazie a voi, a presto! Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.